ad alta voce. Paola Pitagora legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse che andava a un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciar quelle mura nelle quali era stata 8 anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna, il riveder la città, la casa, furono sensazioni piene d'una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la poveretta, con la direzione di quelle confidenti, aveva già prese le sue misure e fatto, come ora si direbbe, il suo piano. O mi vorranno forzare, pensava, e io sarò dura, sarò umile, rispettosa, ma non acconsentirò. Non si tratta che di non dire un altro sì, e non lo dirò. Ovvero mi prenderanno con le buone e io sarò più buona di loro. Piangerò, pregherò, li muoverò a compassione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata. Ma come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. I giorni passavano senza che il padre né altri le parlasse della supplica né della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna, né con carezze né con minacce. I parenti erano seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perché. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un'indegna. Un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua suggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia dei parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile, più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso e quando essa arrischiava timidamente qualche parola che non fosse per cosa necessaria, o non attaccava o veniva corrisposta con uno sguardo distratto o sprezzante o severo, che se, non potendo più soffrire una così amara e umiliante distinzione, insisteva e tentava di familiarizzarsi, se implorava un po' d'amore, si sentiva subito toccare in maniera indiretta ma chiara quel tasto della scelta dello Stato. Le si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistare l'affetto della famiglia. Allora Gertrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutar quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sé al suo posto di scomunicata. E per di più vi rimaneva con una certa apparenza del torto. Tali sensazioni d'oggetti presenti facevano un contrasto doloroso con quelle ridenti visioni delle quali Gertrude s'era già tanto occupata e s'occupava tuttavia nel segreto della sua mente. Aveva sperato che nella splendida e frequentata casa paterna avrebbe potuto godere almeno qualche saggio reale delle cose immaginate, ma si trovò del tutto ingannata. La clausura era stretta e intera come nel monastero. Da andare a spasso non si parlava neppure, e un coretto che dalla casa guardava in una chiesa contigua toglieva anche l'unica necessità che ci sarebbe stata d'uscire. La compagnia era più trista, più scarsa, meno variata che nel monastero. A ogni annunzio di una visita Gertrude doveva salire all'ultimo piano per chiudersi con alcune vecchie donne di servizio, e lì anche desinava quando c'era invito. I servitori si uniformavano nelle maniere e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni dei padroni, e Gertrude, che per sua inclinazione avrebbe voluto trattarli con una familiarità signorile e che, nello stato in cui si trovava, avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione d'affetto come a una loro pari, e scendeva anche a mendicarne, rimaneva poi umiliata e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta, benché accompagnata da un leggero ossequio di formalità. Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da coloro, le portava un rispetto e sentiva per lei una compassione d'un genere particolare. Il contegno di quel ragazzotto era ciò che Gertrude aveva fino allora visto di più somigliante a quell'ordine di cose tanto contemplato nella sua immaginativa, al contegno di quelle sue creature ideali. A poco si scoprì un non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta, una tranquillità e un'inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciar vedere agli altri. Le furono tenuti gli occhi addosso più che mai. Che è che non è? Una mattina fu sorpresa da una di quelle cameriere mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira-tira, la carta rimase nelle mani della cameriera e da queste passò in quelle del principe. Il terrore di Gertrude al rumor dei passi di lui non si può descrivere né immaginare. Era quel padre, era irritato e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire con quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto essere 100 braccia sottoterra, nonché in un chiostro. Le parole non furono molte, ma terribili. Il gastigo intimato subito non fu che d'essere rinchiusa in quella camera, sotto la guardia della donna che aveva fatta la scoperta. Ma questo non era che un principio, che un ripiego del momento. Si prometteva, si lasciava vedere per aria, un altro gastigo oscuro, indeterminato e quindi più spaventoso. Il paggio fu subito sfrattato, come era naturale, e fu minacciato anche a lui qualcosa di terribile, se in qualunque tempo avesse osato fiatar nulla dell'avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggiò 2 solenni schiaffi per associare a quell'avventura un ricordo che togliesse al ragazzaccio ogni tentazione di vantarsene. Un pretesto qualunque per coonestare la licenza data a un paggio non era difficile a trovarsi. In quanto alla figlia si disse che era incomodata. Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell'avvenire, con la sola compagnia di quella donna odiata da lei come il testimonio della sua colpa e la cagione della sua disgrazia. Costei odiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si trovava ridotta, senza saper per quanto tempo, alla vita noiosa di carceriera e divenuta per sempre custode d'un segreto pericoloso. Il primo confuso tumulto di quei sentimenti s'acquietò a poco, ma tornando essi poi a uno per volta nell'animo, vi si ingrandivano e si fermavano a tormentarlo più distintamente e a bell'agio. Che poteva mai essere quella punizione minacciata in enimma? Molte, varie e strane se ne affacciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi non più come la signorina, ma in forma di colpevole e di starvi rinchiusa chissà fino a quando, chissà con quali trattamenti. Ciò che una tale immaginazione, tutta piena di dolori, aveva forse di più doloroso per lei, era l'apprensione della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quel foglio sciagurato passavano e ripassavano nella sua memoria. Le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto impreveduto, tanto diverso da quello a cui erano destinate. Si figurava che avesse potuto cadere sotto gli occhi anche della madre o del fratello o di chissà altri. E al paragon di ciò, tutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui che era stato la prima origine di tutto lo scandalo non lasciava di venire spesso anch'essa ad infestar la povera rinchiusa E pensate che strana comparsa doveva far quel fantasma tra quegli altri così diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma appunto perché non poteva separarlo da essi né tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze senza che subito non le s'affacciassero i dolori presenti che ne erano la conseguenza, cominciò a poco a tornarci più di rado, a rispingerne la rimembranza, a divezzarsene. Né più a lungo o più volentieri si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d'una volta. Erano troppo opposte alle circostanze reali, a ogni probabilità dell'avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole e che non fosse in aria era il monastero, quando si risolvesse d'entrarci per sempre. Una tale risoluzione, non poteva dubitarne, avrebbe accomodato ogni cosa, saldato ogni debito e cambiato in un attimo la sua situazione. Contro questo proposito insorgevano, è vero, i pensieri di tutta la sua vita, ma i tempi erano mutati e nell'abisso in cui Gertrude era caduta e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti, la condizione di monaca festeggiata, ossequiata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivano pure a intervalli a scemare quella sua antica avversione, talvolta il rimorso del fallo e una tenerezza fantastica di devozione, talvolta l'orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della carceriera, la quale, spesso a dire il vero, provocata da lei, si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato castigo, ora svergognandola del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un tono di protezione più odioso ancora dell'insulto. In tali diverse occasioni il desiderio che Gertrude sentiva d'uscir dall'unghie di colei e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungente da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo. In capo a 4 o 5 lunghi giorni di prigionia, una mattina Gertrude, stuccata e invelenita all'eccesso per un di quei dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angolo della camera e lì, con la faccia nascosta tra le mani, stette qualche tempo a divorar la sua rabbia. Sentì allora un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, di essere trattata diversamente. Pensò al padre, alla famiglia. Il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli amici e provò una gioia improvvisa. Dietro questa una confusione, un pentimento straordinario del suo fallo e un ugual desiderio di spiarlo. Non già che la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma giammai non c'era entrata con tanto ardore. S'alzò di lì, andò a un tavolino, riprese quella penna fatale e scrisse al padre una lettera piena d'entusiasmo ed abbattimento, d'afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo. Vi sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta ottenere ogni cosa che abbia un'apparenza di bene e di sacrificio. Come un fiore appena sbocciato s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla primaria che gli aliti punto d'intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, sono quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. Al leggere quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui. E aspettandola si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire: «Perdono!» Egli le fece cenno che s'alzasse, ma con una voce poco atta a rincorare le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo, che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa e tema la punizione, che insomma bisognava meritarlo. Gertrude domandò sommessamente e tremando che cosa dovesse fare. Il principe non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre. Non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude, e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere d'una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che, quando anche casomai che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavalier d'onore come era lui non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata. Allora il principe, raddolcendo a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato, che essa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei. «Ah sì!» esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea. «Ah, lo capite anche voi!» rispose incontanente il principe. «Ebbene, non si parli più del passato. Tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole e conveniente che vi rimanesse. Ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto. Tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura». Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse: «La principessa e il principino subito». E seguitò con Gertrude: «Voglio metterli subito a parte della mia consolazione. Voglio che tutti comincin subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre severo, ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso». A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato avesse potuto significar tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di ristringerne il senso. Ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente. Dopo pochi momenti vennero i due chiamati. Vedendo lì Gertrude, la guardarono in viso, incerti e maravigliati. Ma il principe, con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un somigliante: «Ecco», disse, «la pecora smarrita, e sia questa l'ultima parola che richiami triste memorie. Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli. Ciò che noi desideravamo per suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta. M'ha fatto intendere che è risoluta». A questo passo alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse, ma egli proseguì francamente: «Che è risoluta di prendere il velo». «Brava! Bene!» esclamarono a una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per rendere lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese, che là sarebbe come una principessa, come la rappresentante della famiglia, che appena l'età l'avrebbe permesso, sarebbe innalzata alla prima dignità e intanto non sarebbe soggetta che di nome. La principessa e il principino rinnovavano ogni momento le congratulazioni e gli applausi. Gertrude era come dominata da un sogno. Converrà poi fissare il giorno per andare a Monza a far la richiesta all'abbadessa, disse il principe. Come sarà contenta, visto dire che tutto il monastero saprà valutar l'onore che Gertrude gli fa. Anzi, perché non ci andiamo oggi? Gertrude prenderà volentieri un po' d'aria. Andiamo pure, disse la principessa. Vo a dar gli ordini, disse il principino. Ma, proferì sommessamente Gertrude. Piano, piano, riprese il principe, lasciam decidere a lei. Forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettar fino a domani. Dite, volete che andiamo oggi o domani? Domani, rispose con voce fiacca Gertrude, alla quale pareva ancora di far qualche cosa prendendo un po' di tempo. Domani, disse solennemente il principe. Ha stabilito che si vada domani. Intanto io vado dal vicario delle monache a fissare un giorno per l'esame. Detto fatto, il principe uscì e andò veramente, che non fu piccola degnazione dal detto vicario, e concertarono che verrebbe di lì a 2 giorni. In tutto il resto di quella giornata Gertrude non ebbe un minuto di bene. Avrebbe desiderato riposar l'animo da tante commozioni, lasciar, per dir così, chiarire i suoi pensieri, render conto a se stessa di ciò che aveva fatto, di ciò che le rimaneva da fare, sapere ciò che volesse, rallentare un momento quella macchina che appena avviata andava così precipitosamente. Ma non ci fu verso. Le occupazioni si succedevano senza interruzione, si incastravano l'una con l'altra. Subito dopo partito il principe, fu condotta nel gabinetto della principessa per essere, sotto la sua direzione, pettinata e rivestita dalla sua propria cameriera. Non era ancora terminato di dar l'ultima mano che furono avvertite che era in tavola. Gertrude passò in mezzo agli inchini della servitù che accennava di congratularsi per la guarigione e trovò alcuni parenti più prossimi che erano stati invitati in fretta per farle onore e per rallegrarsi con lei dei 2 felici avvenimenti, la recuperata salute e la spiegata vocazione. La sposina, così si chiamavano le giovani monacande, e Gertrude, al suo apparire, fu da tutti salutata con quel nome. La sposina ebbe da dire e da fare a rispondere a complimenti che le fioccavano da tutte le parti. Sentiva bene che ognuna delle sue risposte era come un'accettazione e una conferma, ma come rispondere diversamente? Poco dopo, alzati da tavola, venne l'ora della trottata. Gertrude entrò in carrozza con la madre e con 2 zii che erano stati al pranzo. Dopo un solito giro si riuscì alla strada marina, che allora attraversava lo spazio occupato ora dal giardin pubblico, ed era il luogo dove i signori venivano in carrozza a ricrearsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude, come portava la convenienza in quel giorno, e uno di loro, il qual pareva che più dell'altro conoscesse ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea, e aveva ogni momento qualcosa da dire del signor tale e della signora tal'altra, si voltò a lei tutto a un tratto e le disse: «Ah, furbetta, voi date un calcio a tutte queste corbellerie, siete una dirittona voi, piantate negli impicci noi poveri mondani, vi ritirate a fare una vita beata e andate in paradiso in carrozza». Thank you. Agora ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.